Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza e la Rosciani, che il virus mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buongiorno Deborah, come stai? Buongiorno, sono proprio curiosa di vedere quale serpente corallo si è manifestato in queste ore di emergenza mondiale, ma visto che la mamma dei furbi è sempre incinta, sentiamo chi ha partorito negli ultimi giorni. E potevamo farci mancare, secondo te, Deborah, gli sciacalli della solidarietà? No! Sono... Adesso mi aspetto quelli delle mascherine, Mauro, onestamente. Magari qualche, che ne so, qualche consegna a domicilio di qualche buon tempone a casa. Vediamo che cosa si inventano. Troveremo qualche manifesto affisso ai nostri condomini che ci raccomanderà appunto di fare attenzione alle consegne a domicilio di mascherine per tutti. Ma non è questa Non è ancora questa la notizia, anche se invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a vigilare, attenzione, anche nelle regioni come la Lombardia, dove è stato disposto l'utilizzo della mascherina sempre e comunque quando si esce, e si deve uscire comunque sempre per motivi fortemente giustificati, per dir così, motivi di lavoro o di salute, o per improrogabili necessità fare la spesa di cose essenziali. Ecco, ripeto, anche dove è stata data questa indicazione di vestire sempre la mascherina, di indossare sempre la mascherina, però è stato assicurato saranno in distribuzione presso le farmacie, le tabaccherie, insomma nei posti pubblici, e non verranno incaricati a domicilio a fare alcunché. Quindi mi raccomando, siate prudenti, siamo prudenti. Il fatto invece, il serpente corallo, cioè l'animale truffatore della nostra trasmissione di oggi, è relativo a delle donazioni, per donazioni si fa per dire, che erano fintamente indirizzate allo Spallanzani e al San Camillo. In realtà erano delle pagine Facebook che invitavano a delle donazioni, ma erano assolutamente sconosciute sia allo Spallanzani che al San Camillo, erano soltanto dei signori truffatori che volevano appunto accaparrarsi le donazioni di coloro che pensavano di fare del bene. Invitiamo tutti, ci invitiamo tutti quanti a guardare sempre sulle pagine ufficiali degli istituti, specialmente per quanto riguarda le case di cura, gli ospedali, eccetera, perché queste raccolte di fondi rarissimamente vengono promosse sui social, e soltanto sui social, oserei dire mai. Di solito sono adeguatamente pubblicizzate, viene data informazione molto precisa, possiamo verificare se effettivamente è attiva questa campagna di raccolta fondi, perché è davvero disgustoso il fatto che in un momento come questo ci sia qualcuno che pensa di lucrare anche sulla generosità della gente. Con questo è il mio piccolo editoriale, cara Deborah. Oh, finalmente fanne anche tu qualcuno, perché sennò sembra sempre che sono io quella che così vuole fare la splendida sugli argomenti. In ogni caso, in caso di dubbio, possiamo segnalare agli ascoltatori che possono segnalare a loro volta le iniziative sospette nelle quali si imbattono alla polizia postale, che poi ci penserà direttamente appunto a fare le dovute verifiche. Allora, molto guarda, bene, Deborah, ti interrompo perché qui ci scrive un'ascoltatrice al 349-238-6666, che lo dico così intanto tra parentesi, è il numero come sempre da utilizzare per SMS e WhatsApp. Mi dice che il comune di Basiglio comunica che verrà porta a porta a consegnare le mascherine. Allora, io non ho motivo di dubitare del messaggio di questa ascoltatrice, invito però tutti quanti, comune di Basiglio, siamo nella provincia di Milano, a controllare sui siti istituzionali, siti dei comuni, piuttosto cercate di raggiungere gli uffici se qualcuno è magari in smart working ma comunque risponde, così da verificare che non si tratti invece di tentativi di intrusione in casa per motivi illeciti. Scusami Deborah, ti ho interrotto mentre stavi proprio per annunciare Hai di che ci benissimo. Occupiamo oggi. Prego. Allora, intanto faremo il consueto punto settimanale sull'andamento dei mercati finanziari, perché questa mattina l'avvio della settimana appare molto sorprendente. Abbiamo rialzi di oltre 3 punti sulle borse europee, quindi vorremmo capire quali sono le ragioni che stanno spingendo così tanto, da che cosa deriva tutto questo ottimismo che ci sembra al momento ancora non tanto giustificato dai fondamentali economici, che sono invece gravemente compromessi, come sappiamo, dal coronavirus, dalla crisi da coronavirus. Per quello che riguarda il tema di approfondimento, a partire dalle 11.30 parleremo invece di iscritti a casse di previdenza private, perché anche tutti gli iscritti, i professionisti iscritti appunto alla previdenza privata professionale, possono chiedere l'indennità da 600 euro con criteri diversi naturalmente rispetto alla possibilità di richiedere i 600 euro per le cosiddette partite IVA, la procedura che viene seguita dall'INPS, che come ricorderete ha determinato l'intasamento, il blocco, il blackout del sito IMSS la settimana scorsa. Anche appunto per gli iscritti alla previdenza privata c'è la stessa opportunità, ma naturalmente anche qua, come dire, un po' il piatto piange, perché a quanto pare già le richieste fatte da ogni iscritto alla propria cassa di previdenza stanno superando la disponibilità finanziaria complessiva per queste categorie. Per cui questa mattina abbiamo con noi il presidente di ADEP, che è l'associazione delle casse previdenziali private, che ci farà il punto della situazione, visto che poi nei prossimi giorni dovranno incontrare di nuovo il governo, e cerchiamo di capire quali sono le criticità che hanno riscontrato loro per queste categorie nell'avviare questa operazione e che cosa ancora si deve aggiustare e sistemare. Per cui architetti, medici, avvocati, notai, odontoiatri, farmacisti, tutte quelle persone che sono interessate a questa operazione, se vogliono chiamarci all'800 24 00 24, rappresentarci, nel caso lo abbiano fatto, appunto la domanda che hanno inoltrato e se sono stati accontentati, se la domanda è stata regolarmente recepita, visto che peraltro poi con i pagamenti si dovrebbe partire proprio tra pochissimi giorni, nel giro di pochissimi giorni. Eccoci qua. E allora vi raccomando, se uscite per fare la spesa ad esempio, andate anche in edicola, perché oggi il Sole 24 Ore è un numero, mi viene da dire, da collezione. Parliamo anche di questo tema, cioè delle professioni, ma parliamo della prossima maturità, come si configura, come verrà svolta, come potrà essere svolta. Parliamo di smart working nell'Esperto Risponde, insomma è un numero ricchissimo di informazioni di servizio, e quindi mi sento davvero di consigliarvelo, non solo ovviamente per l'appartenenza alla squadra. Cara Deborah, a questo punto io chiederei ad Andrea Roccabella, che è oggi alla regia, e a Danilo Di Trani, che è il nostro badante di prossimità, il nostro assistente di prossimità, forza Inter sempre caro Danilo, e naturalmente affianca. Me ne approfittate perché sono lontana stamattina. No, ma adesso tu ci parlerai delle borse, anche di quella società lì che sta in borsa. Dicevo, affianca Danilo Di Trani, il fratello nerazzurro Danilo Di Trani, affianca Marco Lombardo, come sempre presente e vigilante su questa trasmissione. Andiamo allora con il primo spazio, cioè Meteo Borsa. Meteo Borsa. E salutiamo allora Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments. Buongiorno e ben ritrovato e grazie. Buongiorno Deborah e Mauro. Buongiorno, buongiorno Aspesi. Deborah, vai pure. Chiedi tutto ciò che vuoi sapere. Speriamo insomma che la sfera di cristallo sia interessante, quella che è in dotazione a Columbia Threadneedle, quella che è in dotazione ad Alessandro Aspesi, ma in realtà noi abbiamo già fatto una chiacchierata prima di partire con la trasmissione e ti devo dire, Mauro, che quello che sta succedendo questa mattina sui mercati viene un po' descritto tra gli operatori finanziari con un concetto che non è proprio bello a vedersi, però dà l'idea effettivamente del movimento che si sta manifestando stamattina sui mercati, che come anticipavo prima sono tutti molto positivi. Abbiamo una apertura di settimana che è stata definita sprint per i listini continentali. Milano è in rialzo del 3%, Francoforte più 3,5%, Parigi più 3,20%, bene anche Madrid più 3,20%, rimane un po' più indietro Londra per le ragioni che conosciamo, visto che il primo ministro è stato ricoverato, per cui qua si guarda forse un po' con preoccupazione anche la guida del paese in questo momento. Però lo chiamano, una giornata come questa, il rimbalzo del gatto morto. Non so, ecco. Mauro, che ecco, non è proprio bella a vedersi come immagine, ma il punto è che ovviamente, lo dicevamo prima, la situazione economica mondiale è in questo momento un pochino compromessa, perché ancora l'impatto del coronavirus in termini economici si fa difficoltà a quantificarlo, ma sarà enorme e devastante. Per cui dopo chiaramente i forti ribassi che ci sono stati nei primi tre mesi di quest'anno, è chiaro che qualche società è talmente sottovalutata che un po' di ricoperture devono anche starci. Quindi forse ci sono solo ed esclusivamente ragioni meramente tecniche nel rialzo di questa mattina. C'è anche un po' di fiducia però sulla soluzione economica alla crisi che domani potrebbe varare l'Eurogruppo. Allora, Aspesi, ho fatto un'introduzione anche fin troppo lunga e chiedo a lei di analizzare un po' i temi che ho proposto ai nostri ascoltatori. Sì, diciamo che quello che abbiamo visto oggi è più che altro un rimbalzo tecnico dovuto a una situazione che viene definita di ipervenduto che abbiamo vissuto settimana scorsa. Calcoliamo anche che molte società che avevano preso delle posizioni speculative al ribasso hanno chiuso il trimestre e di conseguenza un po' più di liquidità oggi si vede sul mercato. Tuttavia stiamo parlando comunque di rimbalzi molto nervosi che non sono accompagnati da miglioramenti dei fondamentali. Siamo ancora nel mezzo della crisi, della pandemia. Non sappiamo quando e come potremo uscire da questa situazione anche in termini di isolamento e quello che il mercato oggi sta sostanzialmente scontando è che ci potrà essere una migliore apertura da parte della comunità europea per aiutare le aziende sia come liquidità che come programmi per sostenere le persone che in questo momento sono a casa senza lavoro e forse anche una discussione più costruttiva tra Russia e Arabia Saudita, con anche lo zampino degli americani per sostenere il mercato del petrolio. Ripeto, stiamo parlando di situazioni estremamente temporanee e di conseguenza invito tutti a non considerare questo come delle opportunità di speculazione in borsa, ma di guardare la cosa in maniera abbastanza distaccata, perché sicuramente ne vedremo altre nel corso dei prossimi mesi. Cioè, se capisco bene, Aspesi, la volatilità non è affatto finita, questo ci sta dicendo. Faremo ancora un bel po' di altalena in su e in giù con i listini? Sì, perché quando ci sono queste situazioni di estrema incertezza, il mercato tende sempre a esagerare in termini di reazioni, sia nel positivo che nel negativo. Venerdì scorso sembrava che ci fosse l'apocalisse, non c'è stato nessun tipo di classe di attivo finanziaria con un numero positivo, quindi con una performance sopra lo zero. Oggi ci troviamo in una situazione dove i mercati azionari volano, ci sono degli spread in restringimento su mercati emergenti e fino a venerdì scorso erano in allargamento, quindi è probabile che questa altalena continui fin tanto che non ci saranno delle evidenze più chiare che la pandemia si sta stabilizzando. Certo. Allora, tra l'altro venerdì abbiamo avuto anche il dato sulla disoccupazione americana, che era molto atteso perché è la prima statistica ufficiale che praticamente ingloba quasi interamente un po' l'impatto del coronavirus negli Stati Uniti. Abbiamo avuto una risalita al 4,4% e pensate che lo scorso mese la disoccupazione americana era al 3,5% e da mesi viaggiava ai minimi da 50 anni a questa parte, per cui un aumento enorme che era atteso naturalmente, ma comunque preoccupa. Poi ci sono state anche queste dichiarazioni della Kristalina Georgieva, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto stiamo vivendo l'ora più buia dell'umanità, quindi parole che quando vengono pronunciate da un'autorità così importante sicuramente destano molte preoccupazioni. Ritornerei però, Mauro, se sei d'accordo, alle condizioni, alla situazione italiana, perché ci sono due notizie interessanti che forse vale la pena così esplorare un po' con Alessandro Aspesi. La prima, il governo è pronto a varare questa, a rafforzare la cosiddetta Golden Power, cioè quella iniziativa che consente ad uno Stato di proteggere le proprie aziende nel caso ci fossero le condizioni per andare alla loro conquista molto facilmente, come sta succedendo in queste ore. E poi, dopodomani, il Tesoro torna sul mercato obbligazionario con un'emissione molto particolare, il BOT a 3 mesi. Pensa, Mauro, che era dal 2013 che questo titolo non ne si proponeva più al mercato, e quindi sarebbe interessante capire anche questo che segnale è. Che ne pensi? Eh sì, anche perché vorrei capire, ma questo bot a 3 mesi può essere interessante anche per un risparmiatore qualsiasi, come potremmo essere tu e io, Deborah? Aspesi, che ne dice? Aspesi. In un'ottica patriottica sì, immagino che i rendimenti siano leggermente superiori allo zero, però come italiano è comunque un segnale forte che la Banca d'Italia sta dando, è un segnale forte che l'Italia sta mostrando nei confronti di chi comunque vuole dargli credito, e sicuramente questi miliardi che verranno raccolti saranno utilizzati per aiutare la liquidità della nostra imprenditoria, soprattutto quella di piccole dimensioni che in questo momento sta soffrendo di più. Quindi perché no, insomma, i soldi non si perderanno e perlomeno riusciamo a dare anche noi il nostro contributo nell'immediato allo Stato italiano. Anche perché, Aspesi, c'è una, come dire, una potenza di fuoco che dalla Banca Centrale Europea per arrivare al Fondo Monetario Internazionale, insomma, sembra mettere a disposizione una notevole capacità di sostegno alle iniziative dei singoli paesi, al netto di quello che poi si riuscirà a decidere in Europa, su cui stiamo appunto discutendo, su quale sia lo strumento e quali siano le condizioni. Qual è la sua visione su questo? La mia visione è che tutte le stime che vengono fatte secondo me sono ancora per difetto rispetto a quello che poi le economie avranno bisogno per poter uscire da questa situazione. Ora, in Europa, come sapete, c'è tantissima politica, tantissimo dibattito tra paesi del nord, paesi del sud, tra rigoristi, tra colombe. È chiaro però che al di là del nome che verrà dato al programma, che potrà essere MES con senza restrizioni o con pochissime restrizioni, o Corona Bond, che vedo leggermente più difficile realizzarsi, avremo comunque bisogno di iniezioni di liquidità importantissime nell'ordine delle migliaia di miliardi. È quello che gli Stati Uniti hanno immediatamente fatto e quello che la Cina ha fatto 3 mesi fa, e noi non possiamo permetterci comunque con un'area che rappresenta le maggiori economie al mondo, non possiamo permetterci di rimanere indietro. Per tornare anche a quello che Deborah ha menzionato precedentemente, abbiamo delle aziende di eccellenza ed è un peccato che possano entrare nell'obiettivo di operazioni di fusione e acquisizione a prezzi stracciati, quando invece abbiamo tantissime capacità da proporre e da offrire ai nostri clienti. Questa è la famosa Golden Power, giusto Deborah, che si sta discutendo di potenziare, cioè capacità di difendere le nostre aziende, che in questo momento però, scusate, se dobbiamo fare questo vuol dire che i mercati sottostimano in qualche modo il valore reale almeno delle aziende quotate, o mi sbaglio? Sì. Certo, è proprio così. Ci sono stati dei settori pesantemente colpiti, come il settore ovviamente del turismo, della ristorazione, ma ci sono altri settori estremamente importanti, come per esempio il settore della moda, che in questo momento è sotto pressione e che ha delle valutazioni pressoché appetibili a qualsiasi tipo di investitore di lungo periodo, ed è per questo che questa Golden Power dovrebbe aiutare alcuni settori in crisi, che offrono dei punti di entrata estremamente importanti, ma sono anche importanti per la nostra economia nazionale. Certo. È ovvio che non si può fare di tutto un erba un fascio, ci sono aziende che meritano e sono meritevoli di essere supportate, altre che forse avremmo fortuna se venissero vendute, ma purtroppo quelle che non sono valide difficilmente poi vengono richieste dal mercato. Grazie Aspesi. Deborah? Grazie, no, volevamo ringraziarlo naturalmente perché abbiamo pochi minuti, è un GRR molto ricco, per cui ringraziamo Alessandro Aspesi per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e noi direi che possiamo partire con il nostro prossimo blocco. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Adesso vado a vedere, Mauro, se questa notizia ha un impatto in borsa, vado a controllare. Tu intanto va bene, ce lo racconti poi alla mezz'ora, sì, quando facciamo l'abituale collegamento per i mercati finanziari. Però perché abbiamo scomodato Venditti e l'inno ufficiale della Roma? Perché la Roma sta studiando un regalo particolare per i tifosi, cioè personalizzare le mascherine. Questo dimostra, secondo me, anche un po' l'inventiva che un abbastanza tipica nostra, diciamo italiana, la mascherina per chi sottoscriverà il prossimo abbonamento, mascherina giallo-rossa, simile, fanno sapere nella forma, le classiche mascherine chirurgiche, che sarà da indossare allo stadio, quando finalmente si potrà tornare allo stadio. Ovviamente tutti ci hanno già spiegato che non sarà possibile passare dal lockdown, dal tutti dentro al tutti fuori e vita come prima, bisognerà avere una fase intermedia, allora la Roma si sta organizzando. L'unica controindicazione, viene notato appunto nella scaletta che ci ha preparato Marco Lombardo, non sarà più tanto semplice fischiare i giocatori indossando la mascherina, quindi bisognerà un po' studiare, forse anche mostrare il fazzoletto come fanno i madridisti per protestare contro l'arbitro, ad esempio, che è una modalità molto particolare. Prego Deborah. Caro Mauro, non vedo l'ora che arrivino quei giorni in cui potremmo veramente ridere a squarciagola di tutto questo e di tutte le cose che stiamo raccontando ogni giorno. Allora, come tu sai, si sta creando, pur quell'operazione lì fatta ovviamente con un codazzo di polemiche che non finisce più, questa task force per cercare di combattere tutte le fake news che circolano sul tema del virus, ma anche nell'ambito economico, che è quello di cui ci occupiamo io e Mauro ogni giorno, ne circolano tante di notizie che sono false, alle quali molte persone credono e poi chiedono chiarimenti a noi e non solo, mettono molto sotto stress in questo periodo anche le associazioni dei consumatori, perché si è un po' percepito, l'abbiamo già detto qualche settimana fa, insomma anche nei giorni scorsi, che tutti adesso siano autorizzati a non fare più nulla, a non pagare l'affitto, non pagare le bollette, non pagare più i mutui, per cui c'è un po' di confusione. Allora, una delle tante fake news che circolano in questo momento riguarda la possibilità per gli studenti di età compresa fra i 15 e i 20 anni di fare una domanda, si poteva fare entro il 30 aprile, per avere il 3 aprile, per avere un indennizzo da 600 euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena. Allora, pure l'INPS ha dovuto precisare che nel decreto Cura Italia non è previsto alcunché a favore degli studenti, che ci pensino le famiglie a chiedere ovviamente tutte le indennità di cui i familiari hanno bisogno, eccetera, ma per gli studenti non è previsto nulla. Si ricorda che tutte le informazioni ufficiali su tutti i provvedimenti varati dal Cura Italia non solo sono sul sito dell'INPS, che sarà pure difficile da raggiungere in queste ore perché è intasatissimo e tutti vanno a caccia dell'informazione per il singolo caso che lo riguarda, ma per gli studenti non è previsto nulla, per cui anche noi diamo con grande vigore questa informazione, non c'è nulla. E comunque la domanda eventualmente poteva essere fatta entro il 3 aprile e siamo anche oltre questo termine, ma non c'è nulla, per cui anche allora, la Polizia Postale ha voluto rafforzare questo messaggio. Sì. Se volete, dal sito del governo, www.governo.it, lì ci sono degli approfondimenti specifici, sia proprio della Presidenza del Consiglio, sia anche dei collegamenti col Ministero della Salute, con l'INPS, che riepilogano tutte le misure effettivamente in vigore. www.governo.it è il sito istituzionale, non è che stiamo facendo propaganda al governo, cerco di prevenire qualche magari contestazione da parte vostra, stiamo semplicemente dicendo, non mettiamo in giro tutti quanti, noi per primi, Deborah, anche tu ed io, non mettiamo in giro delle cose se non sono adeguatamente verificate, perché poi succede un pasticcio, per usare un termine elegante. Esatto. Prego, quale altra ultima notizia vuoi darci? Io direi di andare subito a sentire la pillolina di Investire Informati di oggi. L'abbiamo assegnata ad un consulente finanziario di Roma, di Banca Fideuram, è Paolo Bonella, che ci dà un po' la sua pillola di buonsenso per affrontare in questo momento la delicata fase che stanno vivendo anche i nostri risparmi. Sentiamolo. Investire Informati. Carissimi Deborah e Mauro, sono Paolo Bonella, consulente finanziario da Roma, e vi prometto che questa volta non vi farò cantare come abbiamo fatto insieme qualche tempo fa al convegno Consulenze 2020 organizzato dall'ANAS, la nostra associazione. Svolgo l'attività di consulente finanziario dal ormai lontano giugno 1984. Sono quindi un pioniere del risparmio gestito e dei fondi comuni. La mia lunga esperienza mi insegna che ad ogni crisi, più o meno lunga ed importante, questa lo è veramente, ne siamo sempre usciti. Non ho particolari consigli da dare, se non quello di stare più possibile vicino ai nostri clienti, cercando di offrirgli non soltanto un supporto tecnico, ma anche e soprattutto un aiuto psicologico. Questo aspetto poi, per me, ha una grande importanza, che sottolinea ancora di più l'aspetto di valenza sociale della nostra professione. Dobbiamo stare accanto soprattutto ai nostri clienti anziani e soli. Il valore dei rapporti umani deve essere primario nella nostra attività. Per finire torno alla musica e vi suggerisco di ascoltare una vecchia canzone di fine anni 50, Domenica è sempre domenica, sigla della celeberrima trasmissione televisiva Il musichiere di Mario Riva. Domenica è sempre domenica. Una melodia che ti mette allegria, speranza e fiducia, che ci riporta ad un'Italia che, stremata dalla Seconda Guerra Mondiale, stava con grande impegno e sforzo comune risorgendo in tutti i campi. Da lì a poco ci sarà il nostro boom economico. Mi auguro con tutto il cuore che dopo questo tsunami si possa ripetere un nuovo rinascimento italiano e così potremmo ricominciare a spendere e godere sti quattro soldi di felicità, come diceva la canzone. Un abbraccio a tutti, ce la faremo. Paolo. E allora, domenica è sempre domenica, ma siccome oggi è lunedì, noi vogliamo sapere come stanno andando i mercati finanziari e alla mezza, qui a Due di Denari, alle 11.30, parte sempre il collegamento con le borse. Complimenti a Deborah perché c'è una voce meravigliosa. Due di Denari. Sì, ma 600 euro è niente, lo volete capire? Ditelo che è niente. 600 euro, cosa ci faccio con 600 euro? Cosa ci pago con 600 euro? Cosa ci paghi tu con 600 euro? Cosa ci pagate voi? Provate a pensare cosa ci pagate voi e pensate che è poco. E ditelo che è poco, che bisogna fare di più. Lockdown, ma fammi il piacere, meazza. Mil piasette il fu volentera per parlare tra noi padani, cara Deborah, te fu volentera, ma se chi lì è il chiamen lockdown. E adesso chiudiamo però questa fase padana, interamente padana di Due di Denari, e invece apriamo la seconda parte della nostra trasmissione con il nostro ospite, cioè Alberto Oliveti, presidente di ADEP, cioè l'Associazione delle Casse di Previdenza Private. Quindi stiamo parlando del cosiddetto reddito di ultima istanza, cioè quella somma per adesso di 600 euro, rispondo così anche all'altro messaggio lasciato dall'ascoltatore. Lo sappiamo, sappiamo tutti che 600 euro sono niente in una situazione come questa, per alcuni sono davvero pochissimo, pochissimo. Però si sta già ragionando di poter portare questi 600 a una somma superiore, vedremo se il governo lo disporrà rapidamente. Intanto chiediamo però al presidente Oliveti qual è la situazione delle casse che appunto si apprestano a erogare, sulla base delle domande dei professionisti, questo cosiddetto bonus o reddito di ultima istanza. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari innanzitutto, presidente Oliveti. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, ci relazioni, noi oggi sul Sole 24 Ore diciamo che insomma quasi un iscritto su due alle casse potrebbe non accedere al bonus o per motivi, non so, è già titolare di una qualche forma di pensione e questo mi sembra di ricordare esclude in radice dalla richiesta, ce lo chiedono anche altri ascoltatori, ma è così per tutti, per le casse e per l'INPS, oppure perché effettivamente c'è un problema di disponibilità da parte delle casse, perché le casse hanno anche un problema di liquidità. Qual è la situazione dal suo punto di osservazione? La situazione è quella riferita intanto al finanziamento dal fondo di ultima istanza, che sono 200 milioni. Con un bonus a 600 euro diciamo che abbiamo 333.333 periodi con gettoni. Sì. E li abbiamo già raggiunti. Il 3 marzo abbiamo raggiunto le domande. 3 aprile. Aprile. No, mi scusi perché qua bisogna stare attentissimi. Ha ragione, 3 aprile. Sì. Abbiamo già raggiunto questo bonus, anzi lo abbiamo superato nella giornata del 3 aprile e noi adesso ci dobbiamo muovere all'interno delle regole che abbiamo concordato con i ministeri. Quindi superata l'eccedenza di questo fondo, noi dobbiamo mandare un report l'8 di aprile. Lo manderemo con i dati di tutte le domande, le istanze pervenute, processate e ammesse alla contribuzione. Ha detto correttamente, i pensionati non hanno diritto a ricevere l'istituto, quindi qualche domanda, qualche istanza verrà respinta per tale motivo, altra per i riferimenti reddituali che possono non tornare. anche se ci sono delle discrepanze, valutazione per cassa riferito al parametro del primo trimestre del 2019, e altri parametri riferiti ai redditi, i nostri sono redditi professionali, quelli in nostro possesso, in realtà si parla invece anche di redditi nei quali vanno considerate pure le eventuali risultanze da redditi di locazione. Tutto ciò detto, la platea dei professionisti italiani intanto recepisce in maniera positiva il fatto che una discriminazione sia cessata. La discriminazione riguardava i titolari di reddito al lavoro autonomo, in Italia sono più di 5 milioni, di questi 1 milione sono iscritti alle casse, le casse poi hanno un valore più ampio perché ci sono anche dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse per un totale di 1 milione e 6 circa, ma questo milione di lavoratori autonomi erano stati discriminati, cioè non potevano divenire all'una tanto di 600 euro, che sarà poco, ma... Poco, piuttosto che niente, meglio piuttosto, diceva qualcuno. Sì, è quello che scrivono anche alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Dicono: vabbè, piuttosto che non avere nulla, anche 600 euro, insomma, purché ci sia qualcosa. Anche perché sembrerebbe che questa una tantum possa diventare una due tanto o qualcosa in più nei mesi successivi, lo vedremo. Per adesso, però, intanto noi abbiamo raggiunto il bonus. Mandiamo le comunicazioni, le varie casse mandano comunicazione di questo consumo completo del bonus dei 333.000 erotti raggiunto. Procederemo a seguito al pagamento riferito a questo, perché questo è il finanziato e questo è finanziato e noi abbiamo l'accordo che noi anticipiamo e loro ci restituiscono i soldi utilizzando dei canali già utilizzati come quello della indennità di maternità o l'indennità di assegno per gli ex combattenti o i loro superstiti. Detto questo, però, il problema è chi paga l'eccedente? Questo è un problema perché è scritto che questo report settimanale dovrà essere fatto e se si eccedesse il finanziamento si dovrebbe ricorrere all'articolo 126 sempre della legge 1820 che deve andare in conversione. Detto questo, io ho avuto assicurazioni personali da parte del Ministro del Lavoro, che è il riferimento, che ci sarà la volontà di reintegrare questo finanziamento mediante un utilizzo dell'articolo 126 come se fosse un vaso comunicante. Quindi aspetti perché usciamo dall'alveo del decreto legge 18 e diciamo i soldi, allora in poche parole, i soldi non bastano per tutti i potenzialmente aventi diritto, però le casse anticipano in qualche modo, potrebbero anticipare anche per coprire questa mancanza, ho capito bene? Cioè anche per quelli per cui proprio lo stanziamento viene giudicato insufficiente, e però poi il governo dice che ripianerà. Voi dite ripianerà, però speriamo che ripiani, perché a volte con le casse professionali, diciamo così, c'è sempre un po' la tendenza a dire vabbè, ma siete voi casse di categoria, non potete chiedere aiuto alla collettività. A volte questo ragionamento si è fatto. No, non dico in questo frangente. Allora, se mi permette faccio un ragionamento molto rapido. Le casse hanno in gestione le proprie categorie dal punto di vista previdenziale. Estendiamo il concetto di previdenziale anche alla tutela dell'attività lavorativa e dei conseguenti redditi, pur se non raggiungiamo mai il ruolo di gestione dei momenti lavorativi critici, non possiamo fare cassa integrazione per intenderci. Detto ciò, noi abbiamo dei patrimoni che sono altro che contributi messi da parte, non utilizzati per finanziare le prestazioni, ma che devono essere messi da parte e costituire una riserva, un comparto di riserva, il cui corretto investimento con i suoi proventi aiuta a pagare le pensioni, oltre all'aiuto che viene dato dal flusso di contributi. Quindi di fatto il patrimonio sono contributi accantonati a garanzia della tenuta del sistema negli anni e nel subentro delle generazioni. Detto questo patrimonio viene investito correttamente e per dare dei proventi, quindi non è, abbiamo la liquidità che ci serve per pagare la correntezza delle prestazioni, ma non è che è un patrimonio mobilizzabile e ripeto sono contributi. Detto questo, noi possiamo provare in una prima fase ad anticipare per poter dare correntezza di pagamenti ai nostri iscritti, seppur nell'esiguità del concetto dei 600 euro dell'una tanto, però nello stesso tempo dobbiamo avere garanzia di un ristoro rapido e lo abbiamo fatto utilizzando dei canali che già sono presenti. Un ulteriore canale potrebbe essere il credito d'imposta successivo per gli anni, perché esiste questo paradosso: il nostro patrimonio viene tassato in quanto patrimonio, sì, e contribuisce alla fiscalità generale, mentre noi sappiamo che siamo privati in quanto non possiamo ricevere trasferimenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Quindi c'è una simmetria di rapporto e non è corretto dire che i professionisti iscritti alle casse non debbono usufruire perché c'hanno le casse che ci pensano. No, i professionisti pagano con il loro patrimonio la fiscalità generale e dalla fiscalità generale si istituiscono i fondi, tra i quali quello di ultima istanza per tutelare i momenti di fragilità e di crisi nazionali. Allora vi... Quindi non è pensabile che noi paghiamo la fiscalità di questo fondo e non ne possiamo utilizzare. Mai utilizzare, certo. È abbastanza chiaro il quadro che lei ci ha delineato. Peraltro, appunto, questo tema del carico fiscale sul patrimonio delle casse è un tema per il quale si cerca soluzione, si chiede, le casse stesse chiedono soluzione da parecchio tempo. Ma tutto questo e naturalmente anche le vostre domande che potete indirizzare al 349-238-6666 o in diretta 800-24-0024, a tutto questo daremo risposta e di questo torneremo a parlare dopo il traffico. Due di denari. Torniamo a parlare con Alberto Oliveti, presidente di ADEP. ADEP è l'associazione che riunisce le casse di previdenza private, cioè le casse dei professionisti, per farla molto semplice, quindi le casse, la cassa degli avvocati, la cassa dei dottori commercialisti, quella dei giornalisti stessi, quella dei notai, insomma tutto questo vasto mondo, questa vasta platea che è destinataria a certe condizioni, cioè per i redditi più bassi, del reddito cosiddetto di ultima istanza, che è una declinazione particolare del bonus di 600 euro. Anzi, come ci ha ricordato più volte il presidente Oliveti nei minuti precedenti, di questa una tantum, speriamo diventi un due tantum, che non ci sia bisogno anche di un tre tantum. Presidente Oliveti, quando abbiamo già chiarito che bisognerà capire col governo che servirà un ulteriore stanziamento, e va bene, e invece per chi è già riuscito a presentare la domanda, insomma, quando pensate di poter pagare, di poter erogare i primi bonus, le prime una tantum? Allora, ripeto, l'8, che è venerdì, che è giovedì, noi mandiamo il report sulle istanze ricevute e processate dalle casse. Credo che nei giorni successivi potremo incominciare a pagare, quindi credo che a cavallo di Pasqua noi incominceremo a pagare agli aventi diritto e sostanzialmente quelli che hanno presentato domanda fino al 3 aprile, perché al 3 aprile abbiamo consumato il bonus. Rimaniamo in attesa per le ulteriori istanze di ricevere da parte del governo dei riferimenti, Ministero del Lavoro, Economia e Finanze, le risposte sul finanziamento. Debora. Allora, Presidente Oliveti, lei diceva abbiamo al momento esaurito appunto il tetto massimo che ci è stato garantito in questa prima fase appunto dallo Stato, 200 milioni di euro che ci consentono di coprire le 333.333 periodico appunto richieste arrivate fino a questo momento a tutto il sistema. Alcune casse però stanno provando ad integrare questa indennità da 600 euro, parlo in particolar modo della sua, quella che lei guida ADEP, ma guida anche EMPAM, che è la cassa appunto dei medici, anche la cassa dei consulenti del lavoro prova ad integrare i 600 euro per l'appunto. Ecco, qual è la risorsa economica che alcune casse riescono anche a destinare a questa, come dire, parte integrativa, e anche questa poi sarà oggetto di trattativa con il governo, anche questa poi chiederete che venga rimpinguata, integrata una volta che voi l'avete anticipata appunto ai vostri iscritti? Allora, non esattamente, nel senso che noi nel nostro patrimonio poi abbiamo delle azioni individuali, per esempio la mia cassa, la cassa dei medici, che ha un numero notevole di iscritti, è la cassa più numerosa dell'intero panorama ADEP, noi abbiamo già fatto delle iniziative che sono quella di dare 1.000 euro al mese per 3 mesi ai nostri liberi professionisti, e di anticipare la pensione in una quota parte del 15% a coloro che ne facciano richiesta. Lo facciamo con le nostre forze, con i redditi che abbiamo, con i contributi che abbiamo messo accantonato nel patrimonio, crediamo che questo non tocchi la nostra sostenibilità cinquantennale che garantiamo agli iscritti, e da questo punto di vista quello che crediamo però che vengano questi 1.000 euro al mese per 3 mesi vengano defiscalizzati esattamente come i 600 euro, perché sarebbe veramente paradossale che questi 1.000 euro che nascono dal patrimonio che è già tassato e quindi costituisce una doppia tassazione, la prima è quella che ogni pensionato paga al momento del pensionamento, una doppia tassazione sul capitale prevedesse che se da questo capitale noi eroghiamo prestazioni anche queste siano tassate, sarebbe una triple tassazione che non avrebbe nessuna giustificazione logica, quindi chiediamo che i 1.000 euro siano 1.000 veri senza pagamento di fiscalità sopra, perché le hanno già pagate la fiscalità. Nello stesso tempo chiediamo l'autorizzazione in via preferenziale rapida ai ministeri vigilanti e attendiamo la risposta dei ministeri vigilanti per poter erogare prima possibile queste prestazioni. Nella mia cassa ormai sono tante le richieste che sono arrivate, sono 32.000 richieste di coloro che potrebbero usufruire di 1.000 euro al mese per 3 mesi. Queste sono iniziative che portiamo avanti, le sta portando avanti anche l'EMPA, i consulenti del lavoro sostanzialmente, anche loro propendono per un'integrazione, Cassa Forense ha varato una manovra, ogni cassa ha le sue manovre interne, abbiamo presentato questo catalogo di manovre al Ministero del Lavoro per renderle dotto delle nostre iniziative, per avere dei canali preferenziali, per poter avere un'autorizzazione rapida, perché se non ci sono autorizzazioni rapide corriamo il rischio di parlare dell'anno del mai. C'è una domanda, infatti, Deborah, prego. No, dicevo il tema della semplificazione, come dire, molto, molto gettonato in questo momento ad ogni livello, per cui sono sacrosante le richieste del presidente Olivetti di sburocratizzare quanto più possibile tutto. Chiusa parentesi, Mauro. Sì, c'è una domanda molto così puntuale di un iscritto, in questo caso in Arcassa, dice: ho avuto dei problemi, quindi la Cassa Ingegneri Architetti, ho avuto dei problemi a collegarmi al sito, ma siamo ancora, è ancora in tempo questo iscritto? Se riesce a collegarsi oggi per fare la domanda? Sì, perché le domande sono fino al 30 aprile, cioè, quindi è ancora in tempo per farlo. Considerate che i siti sono stati letteralmente subissati di telefonate, di contatti, quindi chiediamo tutti comprensione per questa difficoltà legata a questo sovraccarico. Daremo risposta a tutti, verranno prese per ordine di richiesta. Io confido che il governo possa dar seguito alla copertura dell'intera richiesta dei 600 euro, torno a parlare dei 600 euro per tutti, e anche perché poi se la volontà è quella di andare a vedere di un ulteriore una tantum in seguito, non potrebbe avere logica se prima non si è completata la prima tranche di erogazione dell'una tantum, insomma. Certo. Presidente, senta, una curiosità, perché questa ci frulla in testa da molti giorni, da quando soprattutto abbiamo visto da parte di tutto il mondo economico produttivo italiano, soprattutto le persone che lavorano da sole, che hanno degli studi professionali, che sono delle partite IVA, appunto, hanno fatto letteralmente la corsa alla richiesta di questi bonus ad ogni livello. Allora, muovendoci in un terreno di buonsenso, ci sono dei casi in cui lei suggerirebbe di non attaccarsi ai siti delle casse per evitare di fare questa domanda, se si hanno magari le spalle economicamente parlando abbastanza coperte da poter sopravvivere anche questo mese e forse anche il prossimo, oppure lei, visto che lo Stato protegge tutti in questa fase o quantomeno ha l'intenzione di farlo il più possibile, suggerisce in ogni caso a tutti di fare un tentativo di fare la richiesta? Perché abbiamo visto molte cose un po' anche sgradevoli, ecco, in questo periodo. Non v'è dubbio che possono succedere cose sgradevoli. Beh, io mi rifarei però intanto al decreto ministeriale, quello del 28 marzo, che rende operativo il cosiddetto articolo 44, che è quello riguardante il reddito a ultima istanza. Cioè, ci sono alcune fasce di reddito che sono tutelate, quelli sotto un reddito di 35.000 euro e quelli che hanno fra 35 e 50.000 euro, quindi chi è eccedente questo o chi gode di una pensione è escluso, quindi è inutile che insomma faccia una domanda non avendone i criteri. E c'è un sistema anche di risposta alle domande più frequenti, quindi da questo punto di vista cerchiamo sui siti di dare le risposte per definire meglio la platea degli aventi diritto. Io credo che però c'è un insieme di domande, arrivi anche per coloro che paradossalmente possono credere di essere esclusi o che siano realmente esclusi, cioè ci sono dei passaggi che secondo noi meritano di essere rivisti o precisati. In tal senso ho firmato una lettera con il presidente di ADEP di richieste di chiarimento ai ministeri. Cioè, per esempio, se la finalità dell'istituto è quello di tutelare la componente fragile, ci possono essere i professionisti che hanno investito, ma che sono entrati da talmente poco tempo che non hanno possibilità di fare riferimento a un reddito precedente. Questi io credo che meritino la tutela, però esatto. deve essere precisato. Ci sono colleghi, per esempio la fascia tra i 35 e i 50 mila euro, che dato che il criterio di riferimento del primo trimestre 2020 è riferito al primo trimestre 2019, qui dato che è un criterio di cassa, probabilmente dovremo rifarci un criterio di competenza, perché la cassa del primo trimestre 2020 potrebbe non, essendo riferita probabilmente all'ultimo trimestre del 2019, potrebbe non rilevare l'effetto della crisi. Quindi penso che degli adattamenti migliorativi riferiti alla corretta finalità della norma devono essere rivisti. Per esempio, un chiarimento meriterebbe il passaggio per gli under 35.000 euro, cosa si intenda per l'attività limitata dei procedimenti restrittivi. Io credo che l'attività professionale limitata ai procedimenti restrittivi debba prendere a riferimento la clientela che, stante i procedimenti restrittivi sul piano nazionale, non è in grado di far esercitare l'attività ordinaria ai professionisti di riferimento. E non soltanto quelli che sono residenti in quelle zone rosse che sono state a seguito di ordinanze bloccate. Il concetto si deve trasferire sulla ordinaria attività lavorativa riferita all'intero panorama nazionale. Sono dei passaggi che secondo me meritano di essere chiariti, come per esempio anche i redditi forfettari e non soltanto quelli da locazione, via dicendo. Ecco, presidente Olivetti, abbiamo un ultimo minuto di trasmissione, ma naturalmente noi siamo sempre a disposizione per dare informazioni di servizio di questo tipo a tutti gli ascoltatori, in particolare gli ascoltatori iscritti alle casse dei professionisti in questo caso. Qualcuno chiede: ma perché il reddito del nucleo, la numerosità del nucleo familiare non entra nella considerazione? Però forse questa è una richiesta che va rivolta al Parlamento più che al presidente della cassa delle casse. Ha proprio ragione, credo che debba essere rivolta a loro, insomma, francamente. Credo che questo sia, da ultima istanza, significa un soccorso. Il soccorso deve essere fatto su elementi facili, quindi i 600 euro spettano a chi ha un reddito dichiarato 2018 inferiore ai 35.000 euro, con attività limitata, ma limitata sulla clientela, e chi si colloca nella fascia tra i 35 e i 50 e autocertifica un calo del fatturato del 33% riferito al primo trimestre 2019, però col concetto di cassa competenza che ho detto. Adattamenti più fini meriterebbero di essere fatti, ma credo che questo dovrebbe essere rivolto al governo. Grazie, allora grazie al presidente Alberto Olivetti. Cara Debora, siamo agli ultimi 8 secondi, come vuoi utilizzarli? Bene. Niente, salutandoti con simpatia e rimandando l'appuntamento a domani con Due di Denari. Ma certo, molto volentieri. Restate in ascolto. Buona giornata a tutti.